La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 93. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. L'articolo 93 riguarda il giuramento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri. E infatti, una volta nominati, il Presidente del Consiglio e i Ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Anche questo è un giuramento chiaramente laico, un giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione. Non ha alcuna valenza religiosa, ma ha soltanto una valenza simbolica di un momento solenne dal quale il governo prende le sue funzioni. Infatti tutti abbiamo davanti agli occhi la classica fotografia di insediamento del governo. Sappiamo che poche ore dopo la nomina del nuovo governo da parte del Presidente della Repubblica, tutti i ministri salgono al Quirinale per prestare giuramento. In quel momento, ufficialmente, il governo entra nelle sue funzioni. Ma tuttavia, queste funzioni non sono ancora piene, perché la pienezza delle funzioni discende soltanto dalla fiducia. Sappiamo che nella Repubblica parlamentare il governo deve ricevere la fiducia del Parlamento e questa deve intercorrere nei 10 giorni successivi al giuramento. Ma tutto questo è disciplinato dall'articolo 94.